Beh, le novità di quest'anno sono prima di tutto il fatto che abbiamo cambiato ulteriormente le regole del torneo di calcio, per cui abbiamo introdotto delle regole che facilitano ancora di più l'aggregazione. Una delle prime regole introdotte è quella di permettere ai giocatori, alla squadra insomma, che inferiore rispetto all'altra dal punto di vista tecnico, di inserire dopo il 2-0 con due gol di scarto un giocatore in più, per cui si può giocare 7 contro 8, 7 contro 9, dipende dai risultati. Questo permette a tutti di divertirsi, chi vuole esprimersi anche tecnicamente dal punto di vista competitivo in maniera più forte lo può fare, chi vuole comunque non essere umiliato con un risultato particolarmente oneroso invece può far subentrare degli altri giocatori, e questa è una regola che abbiamo, l'esperienza ci ha portato a far capire anche, a farci capire anche che questo poteva essere un altro modo per giocare a calcio e non competere. Un'altra delle regole introdotte è quella di permettere a tutti di giocare, anche a chi non sa giocare a calcio, perché abbiamo introdotto anche la possibilità di utilizzare il vagante, cioè persone assolutamente inadatte a giocare a calcio che in questo caso vestono comunque la maglia della squadra che può entrare in campo, e nel momento in cui toccano la palla finisce nella loro area di competenza, nessuno può intervenire finché loro non finiscono l'azione. Queste sono alcune delle regole introdotte che servono a stemperare comunque gli animi e far sì che il calcio, in questo caso lo sport, sia uno strumento e il fine sia quello dell'integrazione e dell'intercultura. Oggi c'è il saluto anche di Balotelli ai mondiali. Oggi c'è il saluto di Mario Balotelli ai mondiali. Mario Balotelli ci ha regalato una sua riflessione insomma sul razzismo, sul razzismo nel mondo dello sport, una riflessione che ha voluto condividere con noi. È virtualmente un testimonial dei mondiali, non può purtroppo essere presente durante la manifestazione perché dal 2 luglio comincia la preparazione atletica in Francia, però ho voluto darci o renderci omaggio di questo piccolo contributo.